Su un percorso di 24 passi si incontra una radice ogni 3 passi e un tronco ogni 4 passi. Ma se in quel passo si trovano entrambi, allora non verrà saltata la radice, ma si farà una deviazione. Quante radici dovrete saltare in totale?